Ciao ragazze! Ciao! Ciao! Dai, vabbè, iniziamo! No, non è... Ed eccoci qua in regia, bentornate, ben ritrovate a tutte e tutti all'ascolto. Questa è Radio Wombat e siamo e siete su Nervature. Io sono Addu, ormai mi conoscete, ma non sono sola in studio. Ti puoi far sentire. Ciao a tutti, sono Cecilia, buonasera. Buonasera anche a te, che bello averti qua in studio con me. L'avevo addirittura già annunciato alla puntata scorsa, alla fine della puntata avevo dato le anticipazioni addirittura di cosa sarebbe successo in questa puntata odierna di lunedì 27 gennaio. Ebbene, diciamolo, quindi cosa succederà? Succederà che te, Cecilia, in studio oggi mi aiuterai, o meglio, soprattutto parlerai te, devo dire la verità, di un ambito specifico delle piante, ovvero le erbacee perenni. Vedremo con calma di cosa si tratta. Ma oggi è un po' questo il nostro argomentone attorno al quale gireremo. Giusto. Giustissimo. Erbacee perenni e non erbacce perenni, anche se le erbacce perenni sono molto belle, quasi quanto le erbacee perenni. Esatto, già qui ci intortiamo perfettamente e vi facciamo intortare anche a voi. Nel frattempo che riflettete su questo scioglilingua, vi rimando i contatti della radio. Radio Wombat è l'unica radio libera e autogestita di Firenze. Ci trovate dal sito radiowombat.net, da cui potete sentire lo streaming, ma ci trovate anche sulle frequenze AM, sulle 13.59, nell'area fiorentina. Provate a sentirci, magari se siete in macchina a giro, provate a sintonizzarvi con noi. Altra cosa fondamentale è che oggi siamo in diretta, quindi siamo ancora più effervescenti per questa ragione e potete e dovete, anzi, parlare con noi. Come lo fate? Lo fate tramite il pad dal link direttawombat.vado.li. E il pad è semplicemente un foglio di testo condiviso, quindi voi scrivete qualcosa e noi lo vediamo in diretta e vi possiamo rispondere qui ai microfoni. Non esitate davvero, direttawombat.vado.li. Io direi che potremmo iniziare subito con un bel pezzo e vi preannuncio già che direi tutta, credo, praticamente tutta la scaletta musicale è stata amabilmente suggerita dalla qui presente ospite Cecilia, oh yeah. Quindi grazie. Questa è Una rosa blanca di Ibrahim Malouf. Thank you. una rosa blanca. In his famous, in his most famous poem, José Martí made this offering of friendship and peace to both his friend and his enemy. Today, as the President of the United States of America, I offer the Cuban people el saludo de paz. E quindi mettendo un po' questo brano in sottofondo e ripartiamo, ritorniamo qui in voce. Ci volevi raccontare qualcosa a proposito? Diciamo questa scelta di questo brano iniziale è proprio legata al fatto che le parole sono state tratte appunto da una poesia di José Martí, che è stato un grande eroe rivoluzionario cubano, e quindi mi sembrava appropriato perché parla di rose, ma soprattutto diciamo il fatto che lui fosse un eroe nazionale e rivoluzionario ci lega al fatto che le piante di cui stiamo parlando sono piante rivoluzionarie in qualche modo. E questo è sicuramente un bellissimo aggancio, infatti, per introdurre, per iniziare a parlare di appunto erbacee perenni, quello di cui l'argomento che già vi abbiamo annunciato. Spero che lo scioglilingua sia arrivato a sciogliersi, che l'abbiate altrimenti capito. Altrimenti vi aiutiamo noi, Vi aiutiamo, vi aiutiamo. Infatti, no, semplicemente erbacee a volte si confonde con erbacce, le quali quest'ultime sono chiaramente piante indesiderate, mentre invece le erbacee, come si capisce dalla parola stessa, sono piante di erba, nel senso che non hanno legno. Ecco, questo sarebbe un po' il significato. Quindi, a proposito, direi che inizierei subito col chiederti, spiegaci allora come mai vengono chiamate erbacee perenni e ovvero che cosa sono le erbacee perenni. Ok, l'hai praticamente anticipato te, Adele, e quindi Addu. Dicendo che non hanno parte legnosa, si chiamano erbacee perché appunto sono prive di parti legnose, se non consideriamo la radice, la parte aerea, quindi è erbacea, non è un arbusto, non è tantomeno un albero, e queste piante sono molto particolari perché rinnovano periodicamente in stagioni ben scandite la parte aerea, che è appunto una parte erbacea, mentre quando sono in una fase di dormienza e di riposo vegetativo spariscono totalmente e quasi si tende a perderle nel terreno, quindi non si vedono più, e mentre la parte sottoterra rimane viva e vivace e quindi la radice continua comunque a avere un ruolo fondamentale, quindi vivo, e si andrà sempre più in profondità o comunque tenderà a posizionarsi sempre meglio nella sua location, la parte aerea è sparita. e solitamente possiamo dire che una grandissima percentuale di queste piante ha il suo periodo di dormienza corrisponde al periodo invernale, mentre ce n'è una minoranza che invece va in riposo nel periodo caldo, quindi diciamo dalla primavera all'estate, e invece sviluppa la parte erbacea che poi andrà a fiore in inverno o all'inizio della primavera. Sì, se vogliamo, giusto per dare subito dei riferimenti che tutte e tutti voi all'ascolto probabilmente conoscete, questo è il caso dei ciclamini, per esempio, che ora sono il regalo classico, che ti regala un ciclamino perché è in fiore semplicemente in questo periodo. Sì, in questo periodo i ciclamini sono, appunto, rappresentano una delle erbacee perenni più conosciute, magari non classificate come tali. E un altro esempio potrebbero essere gli ellebori, per chi cammina, è abituato a camminare in campagna e soprattutto nel bosco, nelle zone di sottobosco un po' luminose, in questo momento vedrà affacciarsi i primi boccioli degli ellebori, che sono chiamati anche le rose d'inverno. Sì, certo. Ecco, quindi è già una panoramica molto allettante, direi, perché sono piante molto mobili all'interno dell'anno, perché a volte ci sono, a volte non ci sono. C'hanno, ora questo non l'hai specificato, ma hanno anche dei colori molto appariscenti, alcune con i fiori, quindi sono piante che si fanno sentire, ma allo stesso tempo che lasciano anche, come dicevi, un riposo alla vista, anche per noi giardiniere e giardinieri. Sì, è proprio la caratteristica fondamentale di queste piante che, diciamo, di cui se ne contano, anzi non se ne contano, perché ne esistono milioni e milioni in tutti gli habitat del mondo, sono distribuite assolutamente in tutti gli habitat, dalle zone più aride e secche, come ad esempio i sedum. Probabilmente avrete presente tutta questa grande famiglia di piante che assomigliano molto a piante grasse, che sono classificate nel raggruppamento dei sedum e che sono piante che in inverno spariscono completamente, mentre appaiono con le proprie foglioline, con la rosetta basale alla fine dell'inverno, per poi sviluppare una parte aerea di vario tipo, perché anche di sedum esistono centinaia e centinaia, che possono essere più tappezzanti o più cespugliose, e da cui poi sviluppano dei fiori molto appariscenti di tinte anche molto shocking, dai porpora ai rossi ai gialli molto intensi, molto forti, vivaci, agli aranci. Di erbacee ce ne sono veramente una quantità immensa, e se pensiamo che tutto ciò che non è arbusto o albero, quindi che non ha una parte legnosa ben visibile, ben tattile anche, tutto il resto è erbacee. Non so, un esempio clamoroso potrebbe essere il bambù. Il bambù è una immensa erba, una grande erba. Un po' gigante, ma è una erba. Sì. Esistono anche bambù giganti, così come esistono anche bambù tappezzanti, in realtà. Quindi anche di bambù ne esistono veramente tanti, dall'America Latina all'Asia, dove troviamo i bambù più grandi probabilmente, di dimensioni immense. Anche queste fanno parte della famiglia delle erbacee perenni. Esatto. Allora, andando invece a dire un'altra delle caratteristiche delle erbacee perenni, si era visto, insomma, nella scaletta di oggi, che è effettivamente importante dire che sono piante che si disseminano molto bene da sole, giusto? Sì, moltissime di loro, soprattutto le specie spontanee, quelle che ci offre la natura, che sono appunto che troviamo nei paesaggi, nelle camminate, che troviamo ovunque, che nascono spontaneamente, che non è stato l'uomo né a piantare né a riprodurre o a incrociare. Soprattutto queste hanno un carattere autodisseminante potente, estremamente forte, tanto che per molte specie diciamo si ha l'effetto tra virgolette indesiderato di essere anche invadenti, infestanti, quindi di occupare uno spazio molto vasto oltre misura. Però dal mio punto di vista questo non è che un grosso pregio di questo tipo di piante, che hanno appunto la caratteristica di disseminarsi e riprodursi in modo spontaneo e naturale, e di attrarre per questo anche moltissimo gli insetti impollinatori. E qui si aprirebbe un altro argomento, che è quello delle piante nettarifere, quindi le piante utili all'ambiente, e devo dire che tra le erbacee perenni ve ne sono di tantissime, che appunto hanno questa enorme qualità di attrarre gli insetti impollinatori, che poi appunto da una pianta all'altra impollinano i fiori, e questi poi producono capsule che conterranno dei semi che poi saranno dispersi nell'ambiente per poi riprodursi. Ecco, esatto, e quindi questa, come mi spiegavi, ecco, è un po' una caratteristica fondamentale dell'esistenza stessa delle erbacee perenni, perché appunto piante che hanno bisogno di muoversi, come si diceva prima, tanto, anche appunto tramite la riproduzione, quindi per seme, per dispersione. A proposito del muoversi, di questa, introduco un altro termine, vivacità, mi spiegavi che non dappertutto vengono chiamate erbacee perenni o le rispettive traduzioni, diciamo, ma in Francia invece appunto vengono chiamate vivaces, quindi vivaci, diciamo. Sì, sì, la traduzione sarebbe vivaci, proprio per questo carattere estremamente esuberante di riprodursi per seme molto facilmente, e quindi di riprodursi in luoghi nuovi, non... così spontanei, quindi le ritroviamo davvero nei posti più impensabili. Ma la cosa incredibile è che ovunque loro si sistemano, dovunque la pianta da seme riesce a sviluppare, è perfetto per sé, naturalmente, perché cercherà il posto adatto a lei e con le caratteristiche che le convengono di più, quindi in base a esposizione, a terreno. È affascinantissimo questo discorso, ed è molto legato davvero a come poi il seme viene schiuso o trasportato, perché ci sono piante che producono dei semi e li lasciano cadere ai piedi della pianta stessa, ma ce ne sono tante altre che sviluppano dei semi così particolari, con delle alette per esempio, che poi con un po' di vento e di ventilazione comunque vengono sparsi nei dintorni, o ci sono ancora dei semi che vengono invece piluccati dagli uccellini e ricacati molto più lontani. Quindi è meraviglioso questo, perché appunto ti fa apprezzare tantissimo la spontaneità di queste piante. E allora che bellezza questo mondo così in movimento, così vivace, come abbiamo già fatto capire alle nostre ascoltatrici. Ti vorrei chiedere allora, Cecilia, ma come sei arrivata quindi a conoscere così bene le erbacee perenni e quindi ad appassionartene? Un po', ovviamente l'hai già detto, cioè queste caratteristiche appunto di esuberanza, come dicevi, effettivamente attraggono molto. Ma qual è un po' il tuo trascorso? Bene, diciamo dunque, intanto il mio trascorso è legato alla scelta di vita che ho fatto, e cioè a un certo punto della mia vita, abbastanza presto, ho deciso di dedicarmi alle piante, al giardino, e però diciamo il mio incipit è stato in un altro settore, e quindi più legato alle rose antiche. Ma è stato anche, diciamo, quello delle rose il vettore che mi ha portato alla conoscenza di tutto questo mondo, che mi ha completamente stravolto. Non solo mi ha completamente abbagliata, ma ha determinato anche un cambiamento nella mia vita lavorativa di vivaista. E diciamo il click è stato appunto già lavorando da anni comunque già con le rose, avevo desiderio di andare a conoscere delle realtà extra italiane, quindi mi sono per qualche anno ho viaggiato molto in Inghilterra e nel nord della Francia e sono andata a conoscere delle realtà sia di giardini esistenti appunto in queste regioni, anzi in queste nazioni, e giardini pubblici ma anche giardini privati. E lì, soprattutto in Inghilterra devo dire, e nel nord della Francia mi sono proprio innamorata delle perenni che sono venuta a conoscenza appunto durante i viaggi. Perché? Perché in Inghilterra, come sappiamo, l'Inghilterra è la patria dei giardini, è là che le tendenze si sono affermate inizialmente, poi da lì esportate in tutta Europa, è là che è stata fatta grande sperimentazione e anche per il clima e per la facilità, diciamo, legata al clima, alla quantità d'acqua, comunque è un clima molto temperato, in qualche modo abbastanza anche mite. E dove appunto le piante si esprimono in un modo incredibile con una facilità assoluta. È stato visitando dei giardini in particolare dove questo tipo di piante erano estremamente rappresentate con le rose, perché io non dimentichiamo che ero andata per scoprire le rose, per conoscere le rose antiche, per andare a trovare dei guru vivaisti che coltivano rose da generazioni. E nei giardini di questi, così come in alcuni giardini privati, ho scoperto sì delle meravigliose rose, e anche lì si potrebbe aprire un grande capitolo, ma lo lascio alla prossima puntata. I giardini inglesi non sono monoculturali o monotematici come molto spesso mi è capitato di vedere più qua da noi in Italia. Lì i giardini sono estremamente misti, vari, assortiti, e le erbacee perenni sono rappresentate in un modo potente. E quindi io mi sono completamente innamorata. Forse tra l'altro ragionavo che potrebbe essere già anche nell'immaginario di voi ascoltatrici e ascoltatori, magari anche forse tramite i social, può darsi abbiate visto delle immagini, delle foto di giardini super rigogliosi con un sacco di fiori, fiori misti, che spesso vengono chiamati appunto giardini inglesi, quindi al stile inglese, magari così, giusto per diciamo creare un collegamento con il vostro immaginario, per appunto farvi capire meglio di cosa stiamo parlando quest'oggi. Sì, hai detto veramente bene, giardini misti, colorati e molto molto vari, e sono non so, il famoso mix border inglese che è tipico dei cottage garden di tutta l'Inghilterra, sono a questi bordi rigogliosissimi dove sono rappresentati arbusti come rose, peonie e ortenze, completamente commisti alle erbacee perenni, che sono piante che hanno periodi di fioritura che vanno dalla fine dell'inverno alla fine dell'autunno, diciamo, e quindi si coniugano molto molto bene con arbusti che hanno delle stagionalità anche loro ben scandite. Le rose fioriscono a maggio, le ortenze finiscono a giugno-luglio, ecco, e quindi lì sono riusciti ad abbinare insieme agli arbusti tutta una serie di piante che emergono e creano movimento, struttura alla aiola, con colorazioni sorprendenti, forme assolutamente originali, meravigliose. Pensiamo, non so, ai lupini. Non so se avete presente i lupini, che sono queste piante che fioriscono in primavera proprio insieme alle rose, e con le rose legano benissimo, sono estremamente socievoli, formano un'infiorescenza a pannocchia allungata molto alta, anche possono raggiungere il 1,80 m, dal 1,50 m al 1,80 m, e con delle macchie di colori eccezionali, con colori sul blu, sul viola molto intenso, quasi nero. Oppure anche i papaveri, per esempio, in Inghilterra usano tantissimo il papavero somniferum, che è il papavero da oppio sarebbe, che ha queste corolle estremamente ampie e poi ci sono anche delle cultivar, cioè delle varietà create dall'uomo che con l'ibridazione è riuscito a creare dei papaveri a forma doppia o stradoppia addirittura, che poi ha dopo la fioritura meravigliosa che attrae tra l'altro tantissimo i bombi e le api, portano delle capsule contenenti centinaia di semi ogni capsula, estremamente feconde. Questo è un esempio forse appunto che può essere facile da comprendere. Certo, no, infatti essendo in radio, non avendo la possibilità di avere un supporto visivo, è assolutamente necessario fare questo tipo di collegamenti. Allora, prima di passare a, diciamo, la prossima domanda, magari facciamo un altro stacco musicale. Sì, certo. Tanto io, come si è già detto, ormai attingo dalla tua playlist in un certo senso, e direi di mandarvi un bel brano, Africa Unite. Spesso si nasconde, nessuno sa come imbrigliarla troppo a lungo. A volte acceca come un lampo, forse è sempre stata lì, invisibile, sottile, instabile. Quella scintilla incontrollabile, come la terra segue la sua orbita, cercando il sole mentre si riscalda, la ritmico pulsare del mio cuore capta un segnale. Sfuggente terea, ti inseguirò, senza mai dimenticare cosa sei. Sei lotta, la lotta più difficile. La passione che rischia di spegnersi, alimentata da un respiro critico, dimostra il coraggio di affermare cosa sei. E vivila, se superi il tuo limite puoi accenderla, col battito che incendia carne ed anima, un volo contro vento segna rotte imprevedibili. Con un bacio, una carezza, con un pugno dritto in faccia, si gioca senza perdere la dignità. Ma se lo stile non si forgia con costanza e fatica, ogni goccia del mio amore è stata inutile, non c'è storia. Ogni fibra lacerata del mio cuore si rimargina. Libera quella passione che rischia di spegnersi, alimentata da un respiro critico, dimostra il coraggio di affermare cosa sei. E vivila, se superi il tuo limite puoi accenderla, col battito che incendia carne ed anima, un volo contro vento segna rotte instabili. Alimentata da un respiro critico, dimostra il coraggio di affermare cosa sei. E vivila, se superi il tuo limite puoi accenderla, col battito che incendia carne ed anima, un volo contro vento segna rotte instabili. E quindi torniamo in voce. Scusate, ora devo un attimo risistemare l'audio. Ecco, c'è stato un cambiamento qui in regia, qui in studio. Allora, grazie davvero per scriverci sul pad, di cui ricordo di nuovo il link direttawombat.vado.li, perché se lo fosse perso magari vi siete collegate in ritardo. Davvero grazie. E addirittura ci fanno una domanda, ci chiedono qual è il periodo adatto per raccogliere i semi delle erbacee perenni. A me piace piantare semi, grazie. Grazie, brave, anche leggiamo anche brave. Intanto dico, bellissimo, seminare semi è un'attività meravigliosa, davvero fatelo con adulti, bambini, vecchi, con tutti, anche da soli, perché è veramente un'attività che rende felici, per quanto mi riguarda. Certo, ci sono anche dei movimenti, ad esempio il Guerrilla Gardener, ne avrete sentito parlare, sono anche movimenti clandestini. Anche qui su Nervature se ne è parlato. Perfetto. E quindi, quando si raccolgono i semi delle erbacee? Allora, intanto diciamo che non tutte le erbacee si riproducono facilmente da seme. E infatti magari dopo apriamo più un capitolo sulla riproduzione, vi spiegherò un po' meglio. Comunque, rispondendo alla domanda, naturalmente non tutte le erbacee, come ci siamo già detti, fioriscono nello stesso momento, ma se ad esempio ritorniamo al famoso papavero meraviglioso che porta delle capsule stupende, tra l'altro molto ornamentali anche nel periodo autunnale, per esempio, e intacca anche l'inizio dell'inverno. Diciamo, quando questo tipo di piante producono appunto queste cellettine, io le chiamo, si chiamano capsule contenenti semi, è un esercizio molto facile per capire se i semi sono pronti, è scuoterla, E se si sente appunto il rumorino tipo maracas, mini maracas, vuol dire che i semi sono maturi, quindi sono pronti per essere raccolti. C'è da dire che molte di queste dei semi hanno bisogno della vernalizzazione, ossia di un periodo di dormienza invernale in cui hanno bisogno appunto di raffreddarsi, quindi di passare un certo periodo, un certo momento a temperature fredde, per poi essere seminati e schiudersi. Se si guarda a come si comporta spontaneamente la pianta del papavero, per esempio Somniferum, cosa succede? Allora, dopo la fioritura meravigliosa di tarda primavera, dal fiore si comincia a produrre la capsula che porta tantissimi semi. La capsula sta sulla pianta per un certo tempo, dicevo, per tutto l'autunno e intacca anche l'inverno. A un certo punto, con le temperature rigide, piuttosto rigide, diciamo, dell'inverno, la capsula cade, si stacca da sola in modo spontaneo, naturale, e cade nel terreno, perché è una capsula comunque abbastanza pesante e cade proprio ai piedi della pianta del papavero che c'era, perché a quel punto non c'è più il fiore. Sì. Cade ai piedi e quei semi poi con l'andare del tempo, quindi con l'erosione, le piogge, eccetera, tenderanno ad aprirsi. E a primavera vedremo le prime piantucole, quindi da terra attorno ai piedi della precedente pianta si cominciano a vedere le prime rosette basali di quello che sarà il nostro papavero nella stagione successiva. C'è anche da specificare che molte piante naturalmente non hanno le stesse identiche caratteristiche. Io vi ho parlato ora di una pianta annuale come il papavero, che appunto ogni anno muore e poi si risemina da sola. È una pianta annuale che però a me piace considerare perenne allo stesso tempo, perché appunto con questa sua grande e facile capacità di riprodursi da seme poi diventa perennante, perché la ritroviamo comunque sparsa un po' intorno. Naturalmente ogni anno, se noi lasciamo fare da sé alla pianta, la ritroviamo sempre di più e sempre più espansa. Ci sono invece piante che sono biennali. Quindi cosa vuol dire? Che nello stesso processo di sviluppare semi, far cadere il seme a terra, Il primo anno svilupperanno solo foglie, dal secondo anno porteranno la fioritura. Questo è un esempio, ad esempio sono le Digitalis, Digitalis purpura, che è una pianta molto invasiva perché anche questa si dissemina tantissimo, però ha un ciclo biennale, ma se noi piantiamo una Digitalis e le facciamo fare il suo corso, poi ogni anno avremo sempre fiori naturalmente. Molto molto bello infatti questo aspetto dei semi. In generale io un po' più da meno esperta, diciamo che quando cerco dei semi da raccogliere guardo se sono secchi di base, quindi è un po' una regola stupida se vogliamo, però visto che insomma funziona abbastanza, quindi ovviamente il seme segue il fiore e fin qui ci siamo, e lo raccolgo quando è secco, quando la parte della pianta che contiene il seme si sta seccando. Ecco. Farei anche un banalissimo esempio del basilico, che tutte e tutti sicuramente abbiamo avuto a casa. Il basilico si vede bene, fa la spiga col fiore e quella spiga piano piano, ci mette abbastanza tempo, secca, diventa marrone, quindi da verde diventa marrone, e in quel caso allora è il momento per raccogliere i semi, appunto. Un altro modo forse è sentire oltre al secco una parte uditiva, quindi magari schiacciandoli, muovendoli, che facciano un po'... Sì, diciamo deve essere secca appunto l'involucro, il contenitore, il seme deve essere maturo, non deve essere secco. E se, molto spesso viene fatta anche la prova dell'acqua, cioè quando si raccolgono i semi per capire se abbiamo raccolto i semi al punto giusto, se qualcuno è guasto, in qualche modo non ha raggiunto la maturità, la possiamo immergere in acqua e quelli che galleggiano non sono buoni solitamente. Questo può essere un altro esempio. È chiaro che l'osservazione è la prima regola che ci aiuta a comprendere davvero qual è il momento per estrarre i semi. È la pianta stessa che te lo dice. L'involucro deve essere bello che secchino, quello è sicuro. Sì, poi ci sono forme così diverse che andrebbero anche un attimino viste, però ripeto che davvero cercare di avvicinarsi alla pianta, guardarla nei vari momenti del suo sviluppo, vedere il fiore sfiorire e aspettare appunto lo sviluppo di questo sfiorito fin dove porta, ci aiuta veramente a individuare qual è il momento giusto. Allora a questo punto forse... lo ridico, faccio la stessa cosa di prima. Prima di passare al prossimo argomento, mettiamo magari un altro stacco e musicale. Vai. Perché l'argomento volevamo iniziare prima, non l'abbiamo ancora iniziato perché c'è stata questa piacevole domanda. Continuate a scriverci, intanto godiamoci insieme ancora un po' di musica. Sanna la che mi secca vecchia, come non sceglie, come una figlia, la tengo in da stata, te non picca, cette, cette, senta, come sta giro tutti scapeccia, posso fare perché sa guagliare, cagli la regina di tutte le timbe, dimma come la vuoi, e da sa data te, e vuoi duci amare veloce, se suono sano, pur digitale, non faccio male, manca c'è passan, placiata tu importante, non la vuoi, non è da stata, ma ora di panoro non muovendo. C'è bella movimento, mo balla lenda lenda, mo sento c'è fermento. Per tutto il gusto, tutto l'amore, tutto l'orecchio. C'è studio che non c'è me che me lo preoccupa, c'è faccia vecchia. Ancora va con questo premio ingrediente. C'è nome di sentimento, passione per di me datamente. Fatto lato c'è, non si competente. Come a me, alla chi ha fatto non moraggio da prima fondamenta. Give me a little rhythm, Mr. DJ, I want it, I need it all night long. Rock with me, tough with me. stile boom. Guadagni picche e nid, male stinta, come guida. Te ne vuoi sei nemmeno quando è nannina, mamma ne tende a sfuggire. Quando tenga vinta, sta favola ancora, non già finita. Da prima con tutta famiglia in tutta Italia, tipo G. Tra 18 anni, solo innanza, una lunga salita. Picca picca, ghiacchiata, la amici, ma che non da tutta sta fema, ancora mo, la bocca aprissa, ti premi. M-O-S-E-C, è a beat for me. Non c'è chi da domanda ci vuoi, vieni in beat, mettiti in do, pulmino in do, tassi. Fatta su giro, fino in Sicilia, poi dimmi c'è tutto soddita, una besci. Mamma tanne, ma sono, ma zia, ne me cucina, ma tu porta una garandica. So 15 anni, canna, tenga da ta, fatica, ma da che si. Fina, quando dico gli amore mi, e a zita mia, mamma mia, cocchia da cristian. Ma faccio come profano, cucchioni in alemà. E vale in battere, in due, un tre per me è uguale. Se sente importante lanciando questa bagnetta, calla bagnetta, rappresenta go. Mota presente sta bella bagnetta che come comanda su. So, passo lo se di ta, sento come su. Signora musica per te che sta canzona. M-U-S-I-C, is that for me, they must see. No, no, no, no, you can never refuse it. I know I never like it, just move it on, groove it. M-U-S-I-C, is that for tough me. Ed eccoci, torniamo qui su Nervature, Addu e Cecilia qui in studio per voi. Continuate, lo dico, giuro per l'ultima volta, a scriverci sul pad diretta@wombat.vado.li. Dunque, allora, l'argomento a cui volevamo passare adesso è la moltiplicazione o riproduzione di queste piante, perché siamo appassionate e appassionati e quindi non ci basta comprarle in vivaio, vogliamo anche moltiplicarle e invaderci i giardini e le case di piante. Quindi, un po' l'abbiamo anche già accennato, quella del seme, ma sì, per parlare della riproduzione c'è da fare un prequel, giusto? Quindi, esatto. Per sì, capire bene come riprodurle fa molto molto comodo sapere cosa c'è sotto le piante, ovvero che tipo di radice hanno. Eh sì, direi che è fondamentale, necessario. Dunque, le meravigliose erbacee perenni hanno diverse tipologie di radici, ma essenzialmente c'è una classificazione macro che possiamo fare un po' così a cazzotto, e cioè che sono, ci sono, si dividono quelle erbacee che hanno delle radici che accumulano energie, come ad esempio i bulbi, i rizomi, i tuberi, e invece ci sono le radici più tradizionali che, diciamo, non accumulano energie, anche se poi ovviamente trasmettono e fanno circolare tanta energia, però non hanno un apparato vero e proprio che accumula e rilascia i nutrienti necessari al momento idoneo, come ad esempio appunto il bulbo, una cipolla, per farvi capire. La cipolla è questo ingrossamento della radice che è utile perché riserva e trattiene tutte le energie necessarie nei momenti di stress, diciamo, stagionale. Ad esempio, quando è molto caldo, rilascia diciamo, l'acqua necessaria alla pianta per non sopperire. Quindi la differenza è proprio, la macro differenza è questa, e dunque i bulbi, vi ho già detto, le cipolle sono l'esempio più classico, ma anche i tulipani, che conosciamo molto bene, hanno un apparato a bulbo. E poi ci sono i rizomi invece, che sono molto diffusi, ad esempio il nostro giaggiolo, l'iris fiorentino, è un rizoma, e questo anche qui presenta un ingrossamento dell'apparato radicale che è, diciamo, più superficiale rispetto al bulbo, che si trova più in profondità sulla terra. È un ingrossamento che si sviluppa a livello quasi del terreno, talvolta appena sotto la crosta del terreno, ma talvolta anche affiorante, e questo è tipico dei giaggioli. Anche qui sono i rizomi sono delle riserve di nutrienti per la pianta. E poi ci sono i tuberi, come ad esempio le carote, ma anche le patate, che invece sviluppano un ingrossamento della radice che però va molto in profondità, come nel caso della patata. L'altra differenza è quella delle radici invece che non accumulano, che sono le radici stolonifere, fascicolate o a fittone. Allora, le radici stolonifere sono le radici che che sono costituite da delle nervature, dei capillari piuttosto fini e ramificati che penetrano nel terreno e che stolonano, ossia si espandono notevolmente in senso orizzontale. Un esempio può essere quella della fragola. Se avete presente... Sì, quelli sono stoloni superficiali. Ecco, sì, possono essere, vabbè, teoricamente sarebbero da chiamare propaggini, ma insomma, comunque il senso è sempre quello, certo. Esatto, sì, sono assolutamente più superficiali. Vediamo come appunto poi facilmente sviluppa delle gemme negli internodi che poi producono radici e da lì, per questo la pianta stolonifera è una pianta molto invadente perché come il ramo radice tocca il ramo tocca terra, sviluppa la radice, ecco, e quindi si allargano enormemente, come ad esempio la gramigna, cioè la nostra erba più diffusa dei nostri giardini, dei nostri prati, è una pianta stolonifera molto difficile anche da limitare e da contenere. Anche l'erba gigante, citavamo prima, ovvero il bambù, infatti, in quanto erba, appunto, ha lo stesso funzionamento, è il motivo per cui spesso se ne ha molta paura, perché è estremamente infestante e potente, soprattutto. Molto potente, molto potente, spacca cemento proprio. Sì, davvero. Sì. E invece quindi tutto ciò che non è, come si diceva, di specificatamente di riserva, quindi bulbi, rizomi e tuberi, tutto il resto è un, diciamo, correggimi se sbaglio, io me lo figuro in modo appunto semplificato un po' come un groviglio di roba, radici tendenzialmente più fini appunto che non hanno gli ingrossamenti di cui facevamo esempio prima, ma è quindi un fascicolone, appunto un groviglio a volte che va più in giù, a volte più orizzontale eccetera, ma sempre una grande molteplicità di radici. Esattamente, e questo è importante per capire come si riproducono, perché chiaramente una pianta di riserva come un bulbo va riprodotta in un certo modo, e cioè con l'asportazione del bulbo da terra, da sottoterra, e poi si viene pulito, lavato eccetera, e lì si viene fatta la divisione, come ad esempio un esempio molto semplice può essere quello anche dell'aglio, per esempio, no? L'aglio produce questo bulbo molto sottoterra a una certa profondità, se lo vogliamo riprodurre lo prendiamo, lo puliamo un attimo e dividiamo i vari spicchi e poi li riposizioniamo in terra e ognuno di quelli creerà una nuova pianta, esattamente, la come quale, un seme in un certo senso la quale nell'arco della stagione riuscirà da quello spicchio che noi abbiamo messo lateralmente appariranno piano piano altri spicchi, tanti, che si ingrosseranno e che creeranno la, come si chiama, testa d'aglio, no? testa d'aglio. Sì. Quella che poi noi ci mangiamo molto volentieri, esatto. Quindi è molto importante appunto conoscere l'apparato radicale. Per esempio, per tutte le piante stolonifere è molto praticata la divisione da cespo, ossia una pianta che nel corso di qualche stagione si è sviluppata notevolmente, ad esempio i settembrini, che sono gli aster. Noi li chiamiamo settembrini perché tipicamente fioriscono appunto a settembre, loro hanno un'enorme capacità espansiva grazie alle radici stolonifere. Quando hanno occupato un certo spazio, noi potremo tranquillamente dividere dividere la vegetazione e riprodurla. E come si fa? In genere si cerca di farlo nel periodo lontano dalla fioritura, naturalmente. Per quanto riguarda gli aster che fioriscono a settembre, lo si fa a fine inverno. Quindi a fine inverno, quando cominciamo a vedere riapparire da terra tutta la parte verde, la rosetta basale, che in questo caso sarà una rosona perché sarà estremamente espansa, noi possiamo utilizzare due tecniche: o vangare interamente la zolla, quindi con una vanga affilata ricalchiamo tutto il perimetro della zolla, la tiriamo su andando in profondità e da lì con la vanga stessa o un macete dividiamo questa zolla in varie sezioni più piccole e le ripiantiamo in altre zone del giardino, oppure addirittura sempre con la vanga ne tiriamo su solo un pezzo di questa zolla, quindi senza movimentare tutto. Questa è una pratica molto semplice per fare un giardinaggio ecologico e sostenibile, ovviamente, e fai da te. Quindi, appunto, ripeto, è divertente, assolutamente di grandissima soddisfazione, esatto. Di grandissima soddisfazione. Se lo facciamo a fine inverno, a settembre avremo già fiorita la nuova area ripiantumata, quindi è una cosa meravigliosa e bellissima. E invece, ecco, per quanto riguarda i fagioli che hai citato prima, che qui a Firenze dovremmo conoscere molto bene tutte e tutti, quelli invece come li dividi? Quelle è la stessa cosa, diciamo, sono rizomatose, quindi tendenzialmente conviene dividerle ogni 5 anni circa, perché dal momento che piantiamo il primo rizoma, in 5 anni avrà sviluppato molto, e quindi conviene nel mese di settembre, in genere lo facciamo a settembre, fino agosto, settembre, intacchiamo fino alla fine di settembre ma non oltre, tiriamo su tutto il rizoma in questo caso, che sarà, diciamo, una porzione molto legnosa con varie diramazioni. La cosa viene abbastanza meccanica e è piuttosto intuitiva. Cercheremo di rompere le varie parti della radice, i vari rizomi che si sono formati, cercando di tenere un occhio ad ogni pezzetto di rizoma, un occhio che in questo caso è già visibile con le prime foglioline molto basse, molto piccole. Se non lo ripiantiamo poi subito, avremo i fiori immediatamente la primavera successiva. Se lo facciamo invece più avanti nel tempo, ad esempio novembre-dicembre, cosa che si può sempre fare, perderemo un anno di fioritura. Certo, perché la pianta non ha il tempo di assestarsi, di rimettere le nuove radici nel nuovo posto dove è stata collocata, quindi non ha, è ancora un po' troppo scombussolata, sì, ecco, diciamo. Sì, ci vuole il suo tempo per tutto. Esatto. Per quanto riguarda i bulbi, più o meno si è già detto, un po' come si è visto con l'aglio, da cui potete dividere gli spicchi, è un po' sempre simile. I bulbi fanno sempre dei bulbi più piccoli sui lati e piano piano si possono staccare quelli e ripiantare altrove. Sì, anche l'agapanthus può essere un esempio interessante, ecco, perché l'agapanthus, non so se avete presente, tra l'altro viene anche piantato molto nelle aiole urbane, a Firenze lo stanno utilizzando piacevolmente, è quella pianta che fiorisce con dei grandi capolini, direi capoloni, apicali su degli steli verticali molto alti, intorno al 1,50 m, il più comune è il Lumbellatus africanus viola o bianco, una pianta di grandissimo effetto ornamentale e di pochissime esigenze, perché sopporta molto bene il caldo e fiorisce proprio nella stagione più calda. Ecco, anche lei, dopo un certo qualche anno, 5-6 anni dalla sua piantumazione, avrà prodotto tantissima radice e va assolutamente diviso il rizoma. Va diviso perché, così come nel caso del giaggiolo che non ho detto prima, se non si fa perderà di interesse, perché produrrà meno fiori, più piccoli e anche più brutti sul piano proprio cromatico. Quindi conviene, è un'operazione che va fatta ogni 5-6 anni per gli agapanthus e anche per i giaggioli, di dividerli per ridargli nuova vita. Ok, quindi questa è, direi, un'ottima panoramica. Ma allora ti chiedo, un altro modo per la riproduzione è quello della talea, giusto? Che non c'entra proprio niente con tutto quello che abbiamo detto finora, quindi non riguarda le radici. La talea non riguarda la radice, non conviene farla su moltissime erbacee perenni, proprio perché ci sono altri metodi più semplici, come dicevo, quello della divisione di cespo, della divisione dei rizomi o del bulbo, che sono estremamente, estremamente facili e di sicuro resa. La talea è un'operazione un pochino più raffinata, diciamo così, e di meno, insomma, un pochino più difficoltosa, perché c'è bisogno sicuramente, oltre che del periodo giusto per farla, ma anche di stare molto attenti all'acqua e all'umidità, perché le talee attecchiscono bene solo in condizioni di umidità costante e temperatura costante, per cui non è facile. In ogni caso ci sono delle talee sicuramente più semplici da operare, come nel caso delle salvie, delle salvie ornamentali. Non parlo delle salvie totalmente erbacee, in questo caso come la salvia nemorosa, ma delle salvie sufruticose, che sono quelle salvie che hanno, un po' come la lavanda, se avete presente, una parte più bassa legnosa da cui poi sviluppa la parte erbacea che andrà a fiore. Ecco, questo tipo di salvie si riproduce molto bene per talea, così come la lavanda, così come il rosmarino, così come l'origano, sono il timo, l'elicriso, diciamo, queste piante che sono piante più generalmente rientrano tra le piante mediterranee, comunque loro sono arbusti o suffruticose, anche i cisti per esempio, si riproducono molto bene da talea, purché sia fatta nel periodo giusto, ossia subito dopo la fioritura, ad esempio nel caso del cisto, che fiorisce nella prima primavera, quindi diciamo tra aprile e maggio. Ecco, conviene veramente prendere i rametti appena sfioriti, tagliare la parte apicale e poi operare la talea, che si fa in certe, insomma, stando attenti un po' a quante foglie, a quante gemme interrare, quante tenerle fuori. È un'operazione comunque che va vista almeno una volta a fare, con dei substrati un po' particolari, nel senso devono essere ben drenati, assolutamente ben drenati, quindi c'è chi apporta pomice o sabbia, deve essere comunque un terriccio molto sciolto, in modo che radichi facilmente e la radichetta non trovi degli intoppi come dei sassi o comunque un'argilla che impedirebbe sia... Un po' impenetrabile. Impenetrabile in tutti i sensi e poi non fa, insomma, impedisce i drenaggi, quindi... E allora a questo punto vediamo l'ultima, se non... Musica! Aspetta, diciamo l'ultima, se non appunto la prima, modo di riproduzione di cui in realtà abbiamo abbastanza già parlato, ovvero appunto il seme. Ecco, quelle che abbiamo detto finora sono le riproduzioni che vengono dette vegetative o asessuate, proprio perché non mettono in ballo i fiori e quindi non c'è un rimescolamento di geni, cioè quello che viene fuori praticamente da queste divisioni di cespo, di rizoma, eccetera, sono dei cloni delle piante madri, mentre invece il seme è questo miracolo, diciamo, per cui l'evoluzione è possibile, ovvero il rimescolamento genetico. Appunto, sì, ne abbiamo già un po' parlato. Sì, ecco. Sì, diciamo, per il seme, allora, intanto hai detto una cosa bellissima, un miracolo, perché è sempre una cosa incredibile, da una cosina piccola di qualche milione, talvolta non visibile a occhio nudo, ormai mi tocca davvero mettere gli occhiali, per, purtroppo, e qui sto svelando in qualche modo anche la mia età, ahimè, sono alcuni veramente minuscoli, e da una cosa così piccola vedere, non so, uscire una echinacea per esempio, una calendula, è qualcosa di sorprendente. Ma la cosa che ancora è più magica di tutte è che quando te vai a seminare, a meno che tu non abbia raccolto da una pianta madre protetta, isolata, è molto facile e possibile che tu non ottenga una pianta identica e conforme alla pianta madre da cui hai estratto il seme, ma tu ottenga un figlio, ossia un esemplare con caratteri sì simili alla mamma da cui tu hai estratto il seme, ma che può portare anche dei segni nuovi che tu non riconosci, perché è stato comunque ibridato attraverso il bombo o l'ape da un'altra specie simile. Questo è il caso per esempio delle aquilegie, delle echinacee, per parlare di cose più comuni, diciamo, alla portata di tutti. L'aquilegia è una pianta che si dissemina molto facilmente, ma anche si incrocia estremamente facilmente, ma anche il papavero di prima ha questa grandissima facilità di impollinarsi, e quindi quando vai a seminare non sai mai cosa ti aspetta. L'anno scorso, per esempio, sono rimasta sorpresa, quasi da farmi venire le lacrime, quando ho scoperto di aver seminato involontariamente, perché ci è arrivato veramente da solo, un papavero con una forma doppia incredibile, un colore quasi nero, assolutamente arrivato probabilmente sotto le scarpe, perché era nell'orto e io non ce l'avevo portate, non l'avevo seminato lì, il giardino ce l'ho più lontano, insomma, quindi è stato veramente magico. Quindi ecco quello che dicevi te, proprio la sorpresa, la magia, sempre e comunque. Allora sì, direi che in questo caso un bello stacco musicale ci sta più che bene. Ci risentiamo fra pochissimo, rimanete ancora connesse per l'ultima mezz'ora di puntata. Siamo legati alla natura, legati stretti. È nel nostro profondo, nel nostro sangue, inevitabile. È parte integrante di noi, è ciò che ci fa sentire completi. ne abbiamo bisogno, ma non sorprende, certo che ne abbiamo bisogno, ne facciamo parte. Il desiderio umano di creare giardini e di creare ambienti verdi anche nei luoghi più desolati è l'espressione suprema di quell'innata connessione con la natura selvaggia. Progettare con le piante, creare le nostre espressioni nel mondo naturale, in qualche modo ci avvicina a quel desiderio innato di far parte del più grande schema della vita. Per me questo è il motivo per cui progettare con le piante è molto importante, anzi potrei andare oltre e dire che è essenziale per il nostro stesso futuro. Il mio obiettivo non è solo creare qualcosa di funzionale o riempire uno spazio o copiare la natura e non è nemmeno solo creare qualcosa di bello, è creare qualcosa che ci tocchi nel profondo, in un elemento fondamentale, soprattutto è provocare emozioni. Emozioni estremamente positive. Ed è una cosa meravigliosa quando un paesaggio, un giardino o una piantagione da me creati riescono a realizzare tutto questo. Queste erano le bellissime parole di Nigel Dannett, un progettista, paesaggista, illuminato, contemporaneo, inglese, che si è dedicato da sempre alla progettazione di spazi urbani e parchi, utilizzando in modo sapiente e meraviglioso le erbacee perenni. Davvero grazie per questo contributo, direi che a dir poco ci stava benone. Sì, ci piace anche riportare anche appunto altre voci esterne. Io vorrei allora così romperti un po' le scatole e chiederti di riassumere in tre parole, in tre punti, perché usare le perenni, le erbacee perenni in giardino e quindi concludere e convincere le ascoltatrici. Allora, in poche parole, dunque, loro ci aiutano a ricreare degli effetti che si trovano in natura, quindi utilizzare le erbacee perenni nel nostro giardino è come riportare della naturalezza e spontaneità intorno a noi. Sono piante utili perché attraggono gli insetti impollinatori, quindi sono piante mellifere. Sono piante, molte di loro sono anche commestibili, quindi le possiamo anche utilizzare in cucina. Sono piante che coprono praticamente un'ampissima sfera di sfide paesaggistiche, perché grazie alla loro diversità riescono davvero a soddisfare qualunque esigenza, riempire vuoti, creare struttura, impressionarci, meravigliarsi. Sono piante estremamente varie, quindi nei colori, nelle forme dei fiori, nella struttura del fogliame. Sono piante versatili e molto socievoli, come dicevo, quindi si possono abbinare l'una con l'altra, ma anche abbinare molto elegantemente con arbusti più classici a noi consoni. Sono piante che crescono in natura, quindi diciamo portano con sé una forza intrinseca notevole. Sono piante che difficilmente sono attaccate da patogeni o insetti o funghi, a meno che non siano proprio maltrattate o portate fuori dal loro quello che potrebbe essere il loro habitat ideale. Sono piante vivaci, come si diceva, perché per la loro enorme capacità di diffondersi, disseminarsi, di riprodursi anche da radice, riescono a colonizzare e a espandersi. Quindi sono piante per tutti. Penso che fossero un pochino più di tre. Un pochino. Un pochino più di tre, ma probabilmente ce ne sarebbe altre. ragioni per cui utilizzare questo tipo di piante nei nostri giardini, ma direi anche nelle nostre città, come in effetti già in molte città stiamo vedendo. Diciamo, noi arriviamo come città italiane un po' per ultimi, ma già nel nord Europa, in Germania, in Inghilterra, in Francia sono utilizzate veramente in modo molto esteso, proprio perché sono anche piante facili, facili da tenere e da mantenere. Bene, quindi grazie, sono sicura, in questo caso veramente al 100% anche le ascoltatrici stanno apprezzando questa tua passione, perché lo vedo dai commenti del pad, grazie davvero per scriverci. E, allora direi che mi dispiace un po' forzare, ma qui i tempi sono serrati e oggi, diciamo, con quest'oggi abbiamo bene o male concluso l'argomento erbacee perenni, anche se non si chiude mai, non si finisce mai di parlarne, ma passerei al prossimo argomento, perché devo fare un grande, bellissimo annuncio, ovvero con questa puntata noi non stiamo solo parlando della nostra passione, della tua in particolare, Cecilia, ma sto anche inaugurando una nuova rubrica che inizierà qui su Nervature. Yeah! Devo ancora mettere gli applausi, ancora non ho fatto questo effetto. E la rubrica che inizieremo con appunto l'aiuto di Cecilia sarà proprio i lavori del mese in giardino, specificatamente in giardino di orto, tanto ci sono altre Radio Contado in particolare già che si occupa di questo argomento, quindi lasciamo a loro giustamente la palla. E invece noi parleremo di lavori in giardino in ogni mese, e quindi presentiamo questa rubrica con una sigla un po' estesa giusto per oggi, poi verrà fatta una versione più appunto sintetica in seguito, ma oggi ci lasciamo libertà. Di Conta le Gemme, i lavori del mese. Sì, allora non è solo la durata che andrà migliorata, ma anche la qualità dell'audio, scusate. Vabbè, come sapete la radio è tutta autoprodotta e autogestita, e quindi questo tipo di errori possono occorrere. Allora, ebbene, questa rubrica si chiamerà 30D Conta le Gemme. Bellissimo, complimenti per il bel titolo. Bel nome. E quindi mi spiegavi che secondo te ha più senso in questo periodo dell'anno fare un assunto di gennaio e febbraio messi insieme, come quindi si inizia subito in un'eccezione, ta ta ta. Sì, diciamo, essendo oggi che giorno siamo, il 27 sì, gennaio, esatto. Anticiperei, sì, per anche... chi ancora non ha fatto certe cose, no, diciamo che gennaio e febbraio solitamente si uniscono nei lavori in giardino, perché sono i due mesi più freddi dell'anno e le attività sono un po' le stesse, e quindi sì, facilmente dai. Fino a tutto febbraio siamo in tempo per... dici, cosa faresti te adesso? Beh, allora... Cosa fai, anzi? Noi in questo momento ovviamente siamo richiestissimi per la potatura delle rose, naturalmente, che è la cosa che ci caratterizza di più come vivaisti, quindi potare le rose, ma non solo, anche tutti gli arbusti decidui. È il momento di potare e subito conseguentemente concimare, perché la potatura è uno stimolo e quindi la pianta poi ha bisogno di ricevere nutrienti per poter ripartire. Consideriamo che ancora sono giornate fredde, quindi possiamo anche portare un po' in avanti questa attività della potatura fino a tutto febbraio. E, però valutiamo che comunque il fotoperiodo è già diverso, come notiamo già adesso alle 6 ancora, diciamo, c'è luce, quindi le piante percepiscono questa cosa anche se ancora c'è freddo, e anche il fotoperiodo incide sul il risveglio vegetativo. Quindi potate le vostre rose, potatele bene naturalmente, e due info proprio minuscole, brevi brevi, se avete rose rifiorenti a stelo lungo, che sono diciamo le più diffuse nei giardini, potate basso. Non avete paura, potate basso e rinvigorirete molto la vostra pianta, perché quel tipo di rose fioriscono sui rami che producono da ora in avanti. Quindi più potate basso, più loro riproducono nuova vegetazione che andrà a fiorire bene. Mentre se avete rose a fioritura unica, lì il discorso è un po' più complesso, comunque si pota più leggero naturalmente. Poi, naturalmente, come dicevo prima, si può potare, anzi si conviene potare arbusti decidui, ossia tutti quegli arbusti che hanno perso la foglia, però anche qui c'è da fare una grossa differenziazione, e quindi se abbiamo arbusti che fioriscono sulla vegetazione prodotta l'anno precedente, va tagliato poco. E qui il discorso è un po' difficile, comunque essenzialmente diciamo che una forzizia, ecco, se si va proprio sugli esempi classici, una forzizia che fiorisce solo sui rami vecchi, quindi ha prodotto l'anno prima, dobbiamo andare molto cauti a potare, perché se tagliamo duro limiterà molto la fioritura. Questo, ecco, è una regola un pochino di base. Mentre evitare assolutamente ancora di potare tutte le sempreverdi, sia che siano mediterranee aromatiche, che siano arbusti sempreverdi come lauro, alloro, lentaggine, loro vanno potati invece a fine inverno o addirittura proprio a primavera avviata. Faremmo proprio un danno alla pianta se andiamo a potare ora una lentaggine per esempio, oppure una fotinia. Questo per quanto un po' riguarda le potature degli arbusti. Per le potature degli alberi, per esempio, vale un po' la stessa regola: gli alberi a foglia persistente non si toccano, mentre si possono potare tutti i decidui, dagli alberi da frutto agli alberi ornamentali. Lì naturalmente vige la regola del vediamo che ho davanti e cosa voglio ottenere, e non è questa una lezione di potatura, quindi non vi darò altre informazioni, ma comunque è il momento di attrezzarsi per ragionare sulle potature degli alberi da frutto, per esempio. Dico attrezzarsi perché molto importante è anche l'ausilio di attrezzatura idonea e ben disinfettata, affilata, in modo da operare dei tagli netti sulle ramificazioni, e poi attrezzarsi anche subito dopo di pasta caffora o comunque di cera. Talvolta anche viene usata l'argilla stessa per coprire il taglio, in modo che questo non sia un'entrata di malattie fungine, per esempio. Quindi fare in modo che il taglio si cicatrizzi velocemente con una bella disinfettata a base di pasta caffaro. Questo è importante, laddove soprattutto si operano dei tagli importanti su rametti, ma su delle ramificazioni un po' più importanti. Per quanto riguarda le erbacee perenni, invece, qui è interessante, non se ne è parlato in trasmissione, ma ci sarebbe bisogno di approfondire un po' l'argomento, ma in sintesi adesso cominciamo a vedere il ripresentarsi delle prime foglioline basali, quelle che si sono chiamate le rosette basali. Lì allora è possibile intervenire col taglio della vecchia vegetazione che non avevamo tagliato precedentemente, quindi quei rami mezzi secchi che avevano prodotto il fiore, per esempio dell'echinacea o del papavero stesso che si diceva prima, conviene tagliare in modo che la vegetazione possa uscire con forza dal terreno e sviluppare poi la sua il prossimo stelo fiorale. Conviene concimare il terreno nelle aiole del nostro giardino. Se avete molte erbacee perenni, non concimate al piede delle piante assolutamente, altrimenti la foglia che esce da terra trova un concime e tenderà a bruciarsi, ma si può concimare con del compost, per esempio, quindi nutrire il terreno in modo più generale e ampio. È il momento anche di piantare, Quindi se ci sono delle debolezze in qualche area del vostro giardino, se ci sono delle piante invecchiate o morte, allora operiamo le adeguate sostituzioni. Si può piantare anche da radice nuda una vasta gamma di piante, a partire dalle rose a radice nuda, ma anche dagli alberature, dagli alberi da frutto per esempio, o anche da alcune aromatiche che si possono ottenere a radice nuda. Quindi, non so, le lavande per esempio, piantiamo perché è il momento giusto per piantare, nel modo giusto, nel luogo giusto, mi raccomando, sempre avendo cura di capire quali sono le esigenze delle piante e posizionarle nella giusta posizione in giardino. Poi quello che si può fare, ma non è sempre una pratica consigliatissima, dipende, è pulire dalle foglie vecchie. Allora, ai piedi dei vecchi rosai conviene effettivamente dare una rastrellata, in modo che magari foglie malate, precedentemente malate di ad esempio ticchiolatura o oidio, non rilasciano spori sul terreno che poi potrebbero attaccare la vegetazione delle rose esistenti sul posto. Quindi in quel caso conviene togliere le foglie, mentre sui tappeti erbosi ai piedi di piante decidue come gelsi, tigli eccetera, io consiglio ancora di mantenere le foglie, perché oltre a essere nutrimento per il terreno, proteggono eventualmente piante che si possono sviluppare nel loro sul suolo, ad esempio, non so, le violette spontanee ne ricevono ancora per questi freddi, diciamo, vi ringrazieranno con delle bellissime fioriture. Altre cose da fare, ci potrebbe essere una verifica di tutti i vostri attrezzi, appunto. Quindi affilateli, arrotateli, disinfettateli, perché da ora in avanti ce n'è di lavoro da fare in giardino. Ce n'è e francamente non vedo l'ora. Eh sì, infatti sembra una stagione morta, quella dell'inverno in cui non si fa niente, non è per nulla vero, c'è un sacco di cose da fare e da riparare, gazebi che si rompono, impianti di irrigazione, bravissima. Drenaggi che non funzionano, anche mi spiegavi. Sì, quindi in realtà è un periodo in cui ci si dà molto da fare, in realtà. E, grazie allora per questa prima sezione, prima volta di lavori in giardino, e allora direi che siamo definitivamente arrivate alla fine di questa puntata. Ma come ormai le nostre ascoltatrici sapranno, io tutte le volte che invito un nuovo ospite o una nuova ospite in regia, li chiedo di nuovo, li rompo le scatole di nuovo nel chiedergli la pianta storia, cosa che ormai probabilmente tutte all'ascolto conoscono, quindi una storia tua personale che riguarda una o più piante. Ma prima di questo sentiamoci ovviamente la sigla. I nostri esperti interessati a dialogare con le piante. Pianta storia. E registrarne la sensibilità. Pianta storia. Ecco, avevo sbagliato microfono. Eccola qui la siglettina di questa rubrica oggi, proprio, cioè, veramente scaletta piena a dir poco qui. Davvero. Quindi, molto, molto piacevole però. Ma essere, sì, essere ma qua sì, in questo studio bellissimo, veramente. Grazie, grande, grazie. Radio Wombat. Grazie, grazie. Allora raccontaci, scommetto che ne avrai milioni di piantastorie plausibili, dovrai fare una dura scelta. Allora, quando me l'hai chiesto, Adele, di preparare una addu, una pianta storia, ho pensato, ma io non ho niente da dire. è difficile. E invece poi ho cominciato a scriverne tantissime e oggi ve ne racconto una. La storia del Sedum Telephium, o Erba della Madonna. È una pianta magica, come dice il nome, una pianta antichissima che viene utilizzata da tempi immemori come pianta curativa e medicamentosa. È un sedum, fa parte appunto di una grande e numerosa famiglia. e il nome deriva probabilmente, è stato attribuito da Linneo, il famoso botanico che poi ha attribuito la nomenclatura, diciamo, al 95% delle piante conosciute oggi, e il sedum perché probabilmente da latino sedersi, qualcosa del genere, perché molti sedum hanno questa tendenza a ricadere e si usano anche molto come piante striscianti. Il telefium perché c'è una leggenda che narra che Telefio era stato, in una leggenda riferita da Plinio, aveva riportato una ferita da una dannazione ad un arto che non riusciva assolutamente a curarsi, e gli fu poi consigliato di applicare questa magica erba e lui finalmente guarì, e quindi Telefium da Telefio. L'erba della Madonna è una pianta dalle mille proprietà. È una pianta antinfiammatoria, antisettica, cicatrizzante, lenitiva, antidolorifica e ne ha tantissime altre, ed è una pianta che io ho conosciuto diversi anni fa ormai durante una conferenza dedicata a questa pianta unicamente, una conferenza di qualche ora, in cui un Balatrio, che era un medico dell'ospedale di Firenze di Santissima Annunziata, ci raccontò perché lui aveva curato un degente all'ospedale da una cancrena praticamente ormai dichiarata irrisolvibile con applicazioni di questa erba. Era stato detto che non c'era più niente da fare, che avrebbero amputato l'arto. Lui insistette con la struttura, con i medici della struttura, per tentare questo ultimo esperimento, che riuscì a gonfie vele, nel senso che guarì completamente questa persona restituendogli un arto sano. E quindi io da lì, naturalmente, dopo aver ascoltato una cosa del genere, andai subito a cercarmi questa pianta, che allora ancora non conoscevo, e da quel momento ne produco tante per la magia e la potenza intrinseca e per le sue innumerevoli proprietà, da un lato ovviamente, ma anche perché è una pianta con un altissimo valore ornamentale in giardino e adattissima anche alla coltivazione in vaso. Lei è stragenerosa per tutte le proprietà che vi ho detto, ma anche stragenerosa perché non chiede assolutamente niente se non essere piantata e ogni tanto, quando ce lo ricordiamo, essere annaffiata. È una pianta erbacea perenne, quindi rientra a pieno titolo nell'argomento di questa sera. È una pianta che ha un aspetto un po' di una pianta grassa perché ha delle foglie molto coriacee e belle spesse, e una fioritura a ombrella che si esprime nei periodi estivi. Come si usa? È molto semplice, la parte curativa è un gel che è racchiusa sotto una pellicola nella parte inferiore, nella pagina inferiore della foglia. Basta praticamente incidere piegando la foglia a, diciamo, 90 gradi e tirare via questa piccola fine pellicola e applicare la foglia con vischiosa di questo gel sulla parte malata. E per parte malata qui si apre un mondo, perché è talmente ampio il suo spettro di utilizzo che serve per tantissime cose. Io personalmente le ho sperimentata per una gengivite che non riusciva a passarmi, me la sono infilata in bocca e in una notte mi è passato completamente tutto. Quindi guarisce da gengiviti, da giraditi, da infezioni, da escoriazioni, da bruciature, forti bruciature. È una pianta assolutamente da tenere in casa, sul balcone, in giardino, se avete il giardino, ma anche appunto in vaso, si presta benissimo. È una cosa che so che fai e che, siccome appunto si diceva una pianta erbacea, quindi d'inverno non la possiamo trovare perché le foglie non ci sono più, te le raccogli prima e le conservi in freezer, giusto? Sì, esatto, esattamente così, perché è una pianta che è possibile utilizzare tutto l'anno, perché si può facilmente congelare, basta un 20 minuti, 30 minuti fuori dal congelatore e si fa la stessa operazione alla foglia, levando la pellicolina e applicandola nella zona dolente. Che bella storia, tra l'altro utilissima. È una storia molto utile che non finisce qui, ma credo che non ci sia tempo e quindi qui mi fermo. Va bene, magari ci saranno altre occasioni allora di approfondire. Volentieri. Siamo con una puntualità disarmante per nervature. È da veramente tante, tante, numerose settimane che non succede che io sia così tanto puntuale, come ci eravamo ripromesse, tra l'altro. Siamo state bravissime. Complimentoni a noi. E, allora forse potremmo salutarci con un ultimo pezzo. Prima di farlo ringrazio davvero tutti gli ascoltatori per i commenti sul pad, spero che non ce ne siamo persi nessuno, ora non ho più modo di controllare in questo momento, scusate, ma davvero grazie. E quindi con Nervature ci risentiamo settimana prossima, sempre lunedì alle 19, questa volta non ho da darvi anticipazioni invece, mi dispiace, scopriremo insieme che cosa succederà settimana prossima. E allora con quale pezzo ci salutiamo? Faccio scegliere sì, a te. Sì, io direi senza dubbio Ayo Fire. Ascoltatelo, è un pezzo molto coinvolgente. E ringrazio tutti, tutte, ringrazio Addu. Prego, grazie a te. E Radio Wombat. Evviva, grazie, la radio ti ringrazia a sua volta ovviamente, a risentirci magari di nuovo sicuramente a questo punto con la rubrica 30 di Conta le Gemme, i lavori del mese. E vai, allora godiamoci insieme quest'ultimo pezzo, buona serata, rimanete incollate al palinsesto di Wombat. Ciao ciao a tutte e a tutti. Et la foule fait ce qu'elle veut, elle est là pour faire face, elle vient pas foutre le feu. Elle vient déclarer sa flamme, fire. Is anybody listening? The city's on fire. The town is burning down. But there's no water. Da, da, da. 8 million citizens, nobody's really listening. Nobody's really watching. 8 million ignorant. 80,000 teachers, way too many preachers. A thousands of leaders, but nobody leads us. 3 million beggars, 4 million pleasers. We are the world, but they don't really need us. Ghetto got no funds, ghetto ain't no fun. Ghetto kids got guns, ghetto got no one. Ghetto got no funds, ghetto ain't no fun. Ghetto kids got guns, cause they got no one. One love pour mes soldats, one love pour mes petites sœurs. Prise en otage avec une bombe à la place du cœur. C'est ça même. Is anybody listening? The shit is on fire. The town is burning down. But there's no water. Is anybody listening? The shit is on fire. Mais je vous aime quand même. On m'a appris à trahir, mais je vous relève quand même. Je ne suis pas venu seul, viens ma soeur que je t'emmène. Je n'ai que ma grande gueule, pas de gun, que des emmerdes. Viens que je t'emmène, viens que je t'enlève. Viens que je te sauve, que je te cause, que je t'engraine. Graine de colère, mon ghetto est sous pression. Jour de tonnerre, peu de réponses, trop de questions. Nous terre par l'oppression, qu'on tombe de sommeil. Comment nous faire de l'ombre, on est les enfants du soleil. Viens, viens, on reste dur, que notre bruit dure quand même. Même entre les murs, qu'on se murmure quand même. Viens, viens, on brûle le mal. Putain, parce que ma rime est on fire. Ma vie est on fire, ma ville est on fire. Crève, guerre, des merdes, vénère, brailleur. Crabe, besoin d'air, j'émerge, besoin d'ailleurs. Donc, je me répète, ma rime est on fire. Ma vie est on fire, ma ville est on fire. Qui pourra nous comprendre, besoin d'un traducteur. L'amour en cendre avec une bombe à la place du cœur. C'est ça, man. Is anybody listening? The city is on fire. The town is burning down. But there's no. Is anybody listening? The city's on fire. Yeah. The town is burning down. L'amour en cendre avec une bombe à la place du cœur. Nobody's listening to the sounds of the street, the clamor, the violence, the sirens, the heat. 5 million scared, 3 out of 5 million desperate. 1 million hurt, thousands arrested. Yeah. Allume ton esprit, sors de leurs griffes. Relève ton estime, sors de leurs chiffres. J'enchaîne les coups de gueule. Mais on ne libère pas un peuple se libère tout seul. Fire. The city's on fire, the town is burning down. C'est ça, man. There ain't no sounds of silence. Tell me who's gonna help us now. Je vous aime, yeah. Nobody's listening. Personne. 8 million people crying, looking for shelter. Yeah. But they got nowhere to go. Is anybody listening? Allez leur dire que ma ville est on fire. Fire. À la place du cœur. Is anybody listening? Rien à faire, ma vie est on fire. The town is burning down. Et j'ai une bombe à la place du cœur. Yeah. Is anybody listening? Allez leur crier que ma ville est on fire. Yeah. The town is burning down. Et j'ai une bombe à la place du cœur. Is anybody listening? Rien à faire, ma vie est on fire. The town is burning down. J'ai une bombe à la place du cœur.